in una produzione, coproduzione internazionale, bisognava realizzare un documentario su un gruppo di giovani che faceva un progetto che cambiava il loro territorio, e quindi questa idea, questo spunto, da questo spunto è partita la ricerca di un luogo in Italia dove trovare un gruppo di ragazzi che avevano voglia di cambiare il loro mondo, e li ho trovati a Napoli, a Rione Sanità. Loro lavorano lì da 10 anni, sono attivi nel turismo, hanno riaperto le catacombe di San Gennaro, che sono un luogo straordinario che ha 2000 anni, erano completamente abbandonati, e 10 anni fa questi ragazzi hanno deciso di prenderle in mano. Il Rione Sanità è un quartiere difficilissimo di Napoli, che è sempre stato, diciamo, al centro delle cronache per la criminalità, per la violenza e per la camorra. Loro volevano avere una chance di riscatto e hanno capito che attraverso la valorizzazione di un bene comune, di un patrimonio culturale, potevano portare turisti e quindi dare una nuova immagine anche del quartiere e dare possibilità economiche per crescere e per svilupparsi. Ecco, un lavoro oltre che concreto anche in un certo senso concettuale e semantico, perché purtroppo nell'uso comune la paranza è legato appunto alle attività criminali, invece hanno ribaltato un po' questo concetto, no? Sì, assolutamente, diciamo, è molto più famosa la paranza dei bambini, quello che ha dato il nome al libro di Saviano e al film di Giovannesi che è al cinema, che ha vinto poi l'Orso d'Argento a Berlino. Ecco, il mio film non racconta le paranze dei bambini che vanno in giro a seminare il terrore, che soprattutto con la loro esistenza. Il mio film racconta un altro tipo di paranza. La paranza in napoletano è una barca di pescatori, poi nel tempo è nata a indicare il gruppo di fuoco di un'organizzazione camorristica. Invece il mio racconto un altro gruppo, che non è un gruppo di fuoco, è un gruppo che si dedica alla bellezza e quindi a cambiare il proprio quartiere. Tu racconti appunto queste storie raccontando anche le storie di una cooperativa e di un'orchestra e di un centro educativo. Puoi farci qualche esempio, insomma, di storie che vengono raccontate nel tuo lavoro? Sì, allora al centro c'è il lavoro dei ragazzi della Paranza, che è una cooperativa che appunto ha riaperto le catacombe di San Gennaro, però intorno a loro in questi 10 anni sono nate tantissime associazioni. Una per esempio è quella che si chiama Orchestra Sanità Ensemble, che ha riunito tantissimi bambini a cui vengono dati strumenti in comodato gratuito. Immaginate due orchestre di bambini nate in un quartiere che fino a 10 anni fa era ritenuto inavvicinabile da tutti. Ecco, adesso possono suonare la musica, andare in giro, vengono chiamati in tutta Italia a suonare nei teatri. Poi è nato un gruppo teatrale, anzi due gruppi teatrali dentro la sanità. È nato un teatro che si chiama Nuovo Teatro Sanità, un gruppo teatrale che si chiama Sanitart. Io seguo il percorso di questo gruppo Sanitart, che mette in scena uno spettacolo teatrale che racconta i problemi ma anche le risorse del Rione Sanità. E poi c'è anche un'altra attività molto bella, che sono laboratori per i bambini pomeridiani. In particolare io ho seguito la preparazione del carnevale, e questi laboratori sono fondamentali perché tolgono proprio i bambini, gli adolescenti dalla strada, li strappano alle bande criminali, dandogli opportunità di crescere, di svilupparsi come ogni bambino, ogni adolescente dovrebbe fare. Faccio una domanda allargando un po' il discorso, perché insomma da un po' di tempo a questa parte si parla di periferie o comunque di luoghi degradati, come dire, i progetti istituzionali non sempre funzionano. In questo caso sono progetti nati dal basso. Assolutamente nati dal basso. Sono nati perché questi ragazzi avevano un grande desiderio. Non accettavano più che il loro quartiere fosse degradato e abbandonato, e soprattutto perché guardavano quanta bellezza vivevano. Guardavano le catacombe, guardavano le chiese barocche straordinarie, guardavano i palazzi. C'è un palazzo a Napoli, alla Sanità, che si chiama Palazzo dello Spagnolo, che è un palazzo barocco straordinario, una scenografia quasi teatrale. Ecco, loro guardavano questa bellezza e dicevano: ma com'è possibile che noi dobbiamo essere confinati in un ghetto? No, noi vogliamo rompere questa chiusura e aprirci al mondo. Hanno fondato una cooperativa. Una cooperativa è uno strumento associativo, ma è anche uno strumento economico. Non è votato soltanto al benessere dei propri soci e dei propri membri, ma è anche votato a uno sviluppo economico, che è importante. Quindi la loro idea, la loro chiave è stata quella di portare la bellezza al centro dello sviluppo economico. Questa è stata un'idea geniale, che infatti adesso sta dando dei frutti straordinari. Loro erano pochi, all'inizio erano due, tre, pochi ragazzi, adesso sono 40 ragazzi assunti a tempo indeterminato in un posto che non aveva nessuna opportunità di lavoro, e questo è pazzesco se ci pensate. Ecco, è stato possibile perché assieme all'idea appunto sociale c'è stata un'idea economica. Alla proiezione di questo pomeriggio, oltre a te, ci sarà anche Enzo Porzio. Chi è? Sì, Enzo Porzio è una delle colonne portanti della cooperativa La Paranza ed è un ragazzo straordinario, anche protagonista del mio documentario. Lui ha una capacità comunicativa pazzesca, perché loro hanno fatto quello che hanno fatto, ma hanno anche saputo comunicarlo. Se voi andate sul loro sito, che è www.catacombedinapoli.it, trovate un'accoglienza sia come immagini che come storie veramente interessante. Hanno saputo fare quello che si chiama, anche un po' in modo abusato, storytelling del loro percorso. Hanno saputo raccontare le loro storie e porle al centro della comunicazione, per cui non ci sono soltanto storie delle guide, ci sono anche storie di ragazzi che stavano in carcere, che attraverso il lavoro e l'associazione, la cooperativa, hanno trovato una chance di riscatto. Ci sono anche ragazzi che hanno avuto problemi di tossicodipendenza. Loro non si sono nascosti dietro un'ipocrisia di facciata, no, hanno messo pubblicamente le loro storie al centro della loro narrazione, e adesso queste storie diventano un esempio per tutti quelli che vivono problemi in tutta Italia e che in realtà vogliono cambiare per migliorarsi e per migliorare il territorio in cui vivono. E allora ricordo l'appuntamento questo pomeriggio alle 18 al Lumière, l'ingresso da Viazzo Gardino 65, La Paranza della Bellezza, I ragazzi del Rione Sanità, un documentario di Luca Rosini.